La vocazione cristiana. Comincia l'anno liturgico e l'introito della messa ci propone una riflessione intimamente connessa con l'inizio della nostra vita cristiana, una riflessione sulla vocazione che abbiamo ricevuto. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas tuas educe me. Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Chiediamo al Signore di guidarci, di mostrarci le sue vie, affinché possiamo raggiungere la carità, pienezza dei suoi comandamenti. Immagino che anche voi, come me, nel ripensare alle circostanze che hanno accompagnato la vostra decisione di impegnarvi a vivere pienamente la fede, sentiate profonda riconoscenza verso il Signore e siate sinceramente convinti, senza falsa umiltà, che non vi è stato alcun merito da parte vostra. Di solito impariamo a invocare Dio nell'infanzia, dalle labbra dei genitori cristiani. Successivamente, insegnanti, amici, conoscenti, ci hanno aiutato in mille modi a non perdere di vista Gesù. Forse un giorno, non voglio generalizzare, apri il tuo cuore al Signore e raccontagli la tua storia, un amico, un comune cristiano come te, ti svelò un panorama profondo e nuovo, eppure vecchio, come il Vangelo. Ti suggerì la possibilità di impegnarti seriamente a seguire Cristo, a essere apostolo di apostoli. Forse in quel momento hai perduto la tranquillità per ritrovarla trasformata in pace, quando liberamente, perché ti andava di farlo, è questo il motivo più soprannaturale, rispondesti di sì a Dio. Sopraggiunse allora una gioia forte, incessante, che può scomparire soltanto se ti allontani da Lui. Non mi piace parlare di eletti o di privilegiati. Eppure il Signore chiama e sceglie. Sono parole della Scrittura. Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, dice San Paolo, ut essemus sancti. Ci ha scelti prima della creazione del mondo perché fossimo santi. So che questo non ti riempie di orgoglio, né ti fa considerare superiore agli altri. Questa scelta, radice della tua chiamata, deve essere la base della tua umiltà. Si innalza forse un monumento ai pennelli di un grande pittore? Sono serviti per dipingere dei capolavori, ma il merito è dell'artista. Noi cristiani siamo soltanto strumenti del creatore del mondo, del redentore di tutti gli uomini. Gli apostoli, uomini comuni. Mi incoraggia tanto riconsiderare un fatto narrato punto per punto nelle pagine del Vangelo, la vocazione dei primi dodici. Meditiamolo con calma, chiedendo ai santi testimoni del Signore di aiutarci a seguire Cristo come loro hanno fatto. Quei primi apostoli, per i quali ho grande devozione e affetto, se li giudichiamo secondo i criteri umani, erano ben poca cosa. Per quanto riguarda la posizione sociale, fatta eccezione di Matteo, che certamente se la cavava bene, ma lasciò tutto quando Gesù glielo chiese, erano pescatori. Vivevano alla giornata, faticando di notte per provvedere al loro sostentamento. Ma la posizione sociale è un dato secondario. Non erano colti e neppure molto intelligenti, almeno per ciò che si riferisce alla comprensione delle realtà soprannaturali. Perfino gli esempi e i paragoni più semplici risultavano loro incomprensibili e dovevano ricorrere al Maestro. Domine, edissere nobis parabolam. Signore, spiegaci la parabola. Quando Gesù con una metafora allude al lievito dei farisei, credono che li stia rimproverando per non aver comprato del pane. Sono poveri e ignoranti, tuttavia non sono né semplici né schietti. Pur nella loro ristrettezza di vedute, sono ambiziosi. Li troviamo più volte a discutere su chi sarà il maggiore quando Gesù, secondo la loro mentalità, avrà instaurato sulla terra il regno definitivo di Israele. Discutono e si accalorano nel momento sublime in cui Gesù sta per immolarsi per l'umanità, nel raccoglimento del cenacolo. Di fede ne hanno poca. Gesù stesso lo afferma. Lo hanno visto risuscitare i morti, guarire ogni genere di malattia, moltiplicare il pane e i pesci, placare le tempeste, scacciare i demoni. Solo Pietro, scelto come capo, sa rispondere con prontezza. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tuttavia è una fede che egli interpreta a suo modo e pertanto si permette di tener testa a Gesù perché non si dia in redenzione per gli uomini. Gesù deve rispondergli. Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Pietro, commenta San Giovanni Crisostomo, ragionava umanamente, fino a concludere che tutto ciò, la passione e la morte, era indegno di Cristo e riprovevole. Per questo Gesù lo riprende e gli dice: «No, soffrire non è cosa indegna di me. Tu giudichi così perché ragioni secondo la carne, in modo umano». Questi uomini di poca fede eccellevano forse nell'amare Gesù? Lo amavano, senza dubbio, almeno a parole. A volte si lasciavano trascinare dall'entusiasmo. «Andiamo anche noi a morire con lui!» Però, nel momento della prova, fuggono tutti, tranne Giovanni che amava veramente con le opere. Solo questo adolescente, il più giovane degli apostoli, rimane accanto alla croce. Gli altri non nutrivano un amore forte come la morte. Erano questi i discepoli scelti dal Signore. Tali apparivano prima che, ripieni di Spirito Santo, diventassero colonne della Chiesa. Sono uomini comuni, con i loro difetti, le loro debolezze, la loro parola più lunga delle opere. E tuttavia Gesù li chiama per farne dei pescatori di uomini, i corredentori e amministratori della grazia di Dio. Qualcosa di simile è accaduto anche a noi. Senza troppa fatica potremmo trovare nella nostra famiglia, tra i nostri amici e i nostri colleghi, per non parlare dell'immenso panorama del mondo, tante persone più degne di ricevere la chiamata di Cristo. Persone più semplici, più sagge, più influenti, più importanti, più riconoscenti, più generose. Quando ci penso ne sento vergogna. Però mi rendo anche conto che la nostra logica umana non serve per spiegare le realtà della grazia. Dio ama scegliere strumenti deboli perché appaia con maggiore evidenza che l'opera è sua. San Paolo ricorda con trepidazione la sua vocazione. «Ultimo fra tutti apparve anche a me, come un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio». Così scrive Saulo di Tarso, uomo di una personalità e di un vigore tali da avere lungo i secoli una risonanza crescente. Vi dicevo che tutto è avvenuto senza alcun merito da parte nostra, perché alla base della vocazione c'è la consapevolezza della nostra miseria, la certezza che la luce che illumina l'anima, la fede, l'amore con cui amiamo, la carità, e lo slancio che ci sostiene, la speranza, sono doni gratuiti di Dio. Pertanto, se non cresciamo in umiltà, perdiamo di vista lo scopo della scelta divina, ut essemus sancti, la santità personale. È con questa umiltà che possiamo comprendere le meraviglie della chiamata divina. La mano di Cristo ci raccoglie dal granaio. Il seminatore stringe nella sua mano piegata il pugno di frumento. Il sangue di Cristo imbeve il seme, lo impregna. Poi il Signore lo getta nel solco, perché morendo sia vita e affondando nella terra sia capace di moltiplicarsi in spighe dorate. È ora di svegliarsi. L'epistola della Messa ci ricorda che dobbiamo assumerci la responsabilità di apostoli con uno spirito nuovo, con fortezza, con sollecitudine. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Mi direte che non è facile, e non vi mancheranno le ragioni. I nemici dell'uomo, che sono i nemici della sua santità, cercano di impedire questa vita nuova, questo rivestirci dello Spirito di Cristo. La migliore enumerazione degli ostacoli alla fedeltà cristiana è pur sempre quella di San Giovanni. Concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, et superbia vite. Tutto ciò che c'è nel mondo è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita. La concupiscenza della carne non è soltanto la tendenza disordinata dei sensi, né l'istinto sessuale che quando è ordinato in sé non è un male, ma una nobile realtà umana da santificare. Per questo io non parlo mai di impurità, ma di purezza, perché a tutti sono rivolte le parole del Signore: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». A seconda della loro vocazione divina, alcuni dovranno vivere la purezza nel matrimonio, altri, rinunciando all'amore umano, la vivranno corrispondendo unicamente e appassionatamente all'amore di Dio. Negli uni negli altri saranno schiavi della sensualità, ma padroni del proprio corpo e del proprio cuore, per offrirli agli altri in spirito di sacrificio. Quando parlo della virtù della purezza, aggiungo solitamente l'aggettivo santa. La purezza cristiana, la santa purezza, non consiste nel vanto di sentirsi puri, non contaminati. È anzitutto coscienza di avere i piedi di argilla, benché la grazia di Dio ci liberi giorno per giorno dalle insidie del nemico. Considero una deformazione l'insistenza di alcuni nello scrivere o predicare quasi esclusivamente su questo argomento, dimenticando altre virtù di capitale importanza per la vita del cristiano e più in generale per la convivenza fra gli uomini. La santa purezza non è l'unica né la principale virtù cristiana. È tuttavia indispensabile per perseverare nello sforzo quotidiano di santificazione, al punto che senza di essa è impossibile dedicarsi all'apostolato. La purezza è conseguenza dell'amore con il quale abbiamo offerto al Signore l'anima e il corpo, le facoltà e i sensi. Non è negazione, ma lieta affermazione. Dicevo che la concupiscenza della carne non si limita soltanto al disordine della sensualità, ma anche a quello della comodità, della mancanza di vibrazione, che inducono a cercare ciò che è più facile e più piacevole, a percorrere il cammino in apparenza più breve, anche a costo di venir meno alla fedeltà a Dio. Un simile comportamento significa abbandonarsi incondizionatamente al potere di quella legge contro cui ci previene San Paolo, la legge del peccato. Io trovo dunque in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Ed ecco la risposta dell'Apostolo. La grazia di Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Possiamo e dobbiamo lottare contro la concupiscenza della carne, perché, se siamo umili, la grazia del Signore ci verrà sempre concessa. L'altro nemico, scrive Giovanni, è la concupiscenza degli occhi, un'avarizia di fondo che porta a dare importanza solo a ciò che si può toccare. Occhi che restano attaccati alle cose terrene, ma anche occhi che, proprio per questo, non sanno scoprire le realtà soprannaturali. Possiamo dunque utilizzare l'espressione della Sacra Scrittura nel senso di avarizia dei beni materiali e inoltre nel senso di deformazione che porta a guardare unicamente con visione umana ciò che ci circonda, gli altri, le circostanze della nostra vita e quelle del nostro tempo. Gli occhi dell'anima si annebbiano. La ragione si crede autosufficiente per comprendere tutto prescindendo da Dio. È una tentazione sottile che si nasconde dietro la dignità dell'intelligenza che Dio nostro Padre ha dato all'uomo perché lo conosca e lo ami liberamente. Trascinata da questa tentazione, l'intelligenza umana si considera il centro dell'universo. Si esalta ancora una volta al «diventerete come Dio». Tutta piena d'amore per se stessa, volge le spalle all'amore di Dio. A questo punto la nostra vita può capitolare senza condizioni nelle mani del terzo nemico, la superbia vite. Non si tratta solamente di effimeri pensieri di vanità o di amor proprio. È uno stato di totale presunzione. Non inganniamoci. Questo è il peggiore dei mali, la radice di tutti i traviamenti. La lotta contro la superbia deve essere costante. Non a caso è stato detto in modo espressivo che l'orgoglio muore il giorno dopo la morte dell'individuo. È l'alterigia del fariseo che Dio non può giustificare, perché trova in lui la barriera dell'autosufficienza. È l'arroganza che porta a disprezzare gli altri, a dominarli, a maltrattarli, perché dove c'è superbia, c'è offesa e umiliazione. La misericordia di Dio. Oggi, inizio del tempo di Avvento, è cosa buona considerare le insidie di questi nemici dell'anima, il disordine della sensualità e della leggerezza superficiale, l'insipienza della ragione che si oppone al Signore, la presunzione altera che rende sterile l'amore a Dio e alle creature. Tali situazioni dello spirito sono ostacoli evidenti e il loro potere perturbatore è grande. Per questo la liturgia ci porta nell'introito ad implorare la misericordia divina. A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici. Nell'antifona dell'offertorio ripeteremo confido in te che io non sia confuso. Ora che il tempo della salvezza è vicino, è consolante ascoltare dalle parole di San Paolo che quando si manifestarono la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per la sua misericordia. Scorrendo la Sacra Scrittura, scoprirete costantemente la presenza della misericordia di Dio. Essa riempie la terra e si estende a tutti i suoi figli, super omnem carnem. Ci circonda, ci previene, si moltiplica per venirci in aiuto e costantemente viene riconfermata. Dio, venendoci incontro come padre amoroso, ci accoglie nella sua misericordia, una misericordia soave, buona come le nuvole apportatrici di pioggia. Gesù completa e ricapitola tutta la storia della misericordia divina. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E ancora, siate misericordiosi come è misericordioso il vostro Padre Celeste. D'altronde, sono rimaste bene impresse nella nostra mente, tra molte altre scene del Vangelo, la clemenza verso la donna adultera, la parabola del figliol prodigo, quella della pecora smarrita, quella del debitore perdonato e la resurrezione del figlio della vedova di Nain. Quanti motivi di giustizia per spiegare questo grande prodigio. È morto l'unico figlio di una povera vedova, colui che dava senso alla sua vita e poteva aiutarla nella sua vecchiaia. Ma Gesù non opera il miracolo per dovere di giustizia, lo fa per compassione, perché si commuove interiormente davanti al dolore umano. Quanta sicurezza ci deve ispirare la misericordia del Signore. Invocherà da me aiuto e io ascolterò il suo grido, perché sono misericordioso. È un invito, una promessa che non mancherà di compiere. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Nulla potranno i nemici della nostra santificazione, perché la misericordia di Dio ci precede. E se per nostra colpa o per nostra debolezza cadiamo, il Signore ci soccorre e ci risolleva. Avevi imparato a evitare la negligenza, ad allontanare da te l'arroganza, ad acquistare la pietà, a non essere prigioniero delle cose mondane, a non preferire ciò che è caduco all'eterno. Dato però che la debolezza umana non può procedere con passo sicuro in un mondo sdrucciolevole, il buon medico ti ha indicato anche dei rimedi contro il disorientamento, e il giudice misericordioso non ti ha negato la speranza del perdono. Corrispondenza umana. L'esistenza cristiana si svolge in questo clima di misericordia divina. È questo l'ambito dello sforzo di chi vuole comportarsi come figlio del Padre. Quali sono i mezzi principali per irrobustire la vocazione? Oggi te ne indicherò due, che sono come i cardini vitali della condotta cristiana: la vita interiore e la formazione dottrinale, cioè la conoscenza profonda della nostra fede. Vita interiore, in primo luogo. Quanti ancora non lo capiscono? Quando sentono parlare di vita interiore, pensano alle navate buie o all'aria viziata di alcune sacrestie. Da più di un quarto di secolo cerco di insegnare che non è nulla di tutto ciò. Io mi riferisco alla vita interiore dei comuni cristiani, quelli che abitualmente si incontrano in piena strada, all'aria aperta, quelli che per la strada, nel lavoro, in famiglia e nei momenti di svago non perdono di vista Gesù per tutta la giornata. Non è forse questa una vita di continua orazione? E non hai forse compreso anche tu la necessità di essere anima di orazione, di avere con Dio un rapporto che ti deifichi? Questa è la fede cristiana, e così l'hanno sempre intesa le anime d'orazione. Diventa Dio, scrive Clemente Alessandrino, l'uomo che vuole tutto ciò che vuole. L'inizio non è facile. Costa sforzo rivolgersi al Signore e ringraziarlo della sua pietà paterna e concreta verso di noi. Poi, a poco, benché non sia cosa del sentimento, l'amore di Dio si fa tangibile come una traccia profonda nell'anima. È Cristo che ci segue amorosamente. Ecco, sto alla porta e busso. Come va la tua vita di orazione? Non senti a volte durante il giorno il desiderio di conversare con Lui, senza fretta? Ti capita di dirgli ogni tanto: poi ti racconterò tutto, ne parleremo insieme? Nei momenti espressamente dedicati a tale colloquio con il Signore, il cuore si apre, la volontà si irrobustisce, l'intelligenza, aiutata dalla grazia, imbeve di realtà soprannaturali le vicende umane. Come frutto, matureranno sempre propositi chiari e concreti di migliorare la tua condotta, di affinare la carità nel rapporto con tutti, di impegnarti a fondo, con lo zelo di un vero sportivo, nella lotta cristiana d'amore e di pace. L'orazione diventa allora incessante, come il battito del cuore e il pulsare delle arterie. Senza questa presenza di Dio non c'è vita contemplativa. E senza vita contemplativa a ben poco serve lavorare per Cristo, perché se Dio non edifica la casa, invano si affaticano i suoi costruttori. Il sale della mortificazione. Il cristiano comune, che non è un religioso, né si allontana dal mondo, perché il mondo è il luogo del suo incontro con Cristo, non ha bisogno per la sua santificazione di alcun abito esteriore, né di alcun segno distintivo. Le sue caratteristiche sono interiori, la costante presenza di Dio e lo spirito di mortificazione. In realtà, si tratta di una cosa sola, perché la mortificazione non è altro che l'orazione dei sensi. La vocazione cristiana è vocazione di sacrificio, di penitenza, di espiazione. Dobbiamo riparare per i nostri peccati. Dio sa quante volte abbiamo distolto lo sguardo da Lui per non vederlo, e per tutti i peccati degli uomini. Dobbiamo ricalcare da presso le orme di Cristo. Portiamo sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, l'abnegazione di Cristo, il suo annientamento sulla croce, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Il nostro è un cammino di immolazione che conduce a trovare, nella rinuncia, il gaudium cum pace, la gioia e la pace. Non dobbiamo guardare il mondo con aria delusa. Hanno reso un cattivo servizio alla catechesi, forse involontariamente, quei biografi di santi che hanno voluto trovare ad ogni costo cose straordinarie nella vita dei servi di Dio fin dai loro primi vagiti. Raccontano di taluni che da piccoli non piangevano, che per mortificarsi non poppavano di venerdì. Tu e io siamo nati piangendo, come Dio vuole, e ci siamo afferrati al petto delle nostre madri senza preoccuparci di quaresime e di tempora. Ora, con l'aiuto di Dio, abbiamo imparato a scoprire lo spatium vere penitentiae, il tempo di una vera penitenza. In quei momenti facciamo propositi di emendatio vitae, di migliorare la nostra vita. È questa la via per preparare l'anima alla grazia e alle ispirazioni dello Spirito Santo. E con la grazia, ve lo ripeto, viene il gaudium cum pace, la gioia, la pace e la perseveranza nel cammino. La mortificazione è il sale della nostra vita. E la migliore mortificazione è quella che in piccole cose, lungo tutta la giornata, combatte contro la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Si tratta di mortificazioni che non mortificano gli altri, che ci rendono più garbati, più comprensivi, più aperti con tutti. È evidente che non puoi considerarti mortificato se sei suscettibile, se soddisfi solo il tuo egoismo, se sopraffai gli altri, se non sai privarti del superfluo e a volte del necessario, se ti rattristi quando le cose non si realizzano secondo le tue previsioni. Sei invece mortificato se sai farti tutto a tutti per guadagnare tutti. La fede e l'intelligenza. La vita d'orazione e di penitenza e la consapevolezza della nostra filiazione divina ci trasformano in cristiani di profonda pietà, simili a bambini davanti a Dio. La pietà è la virtù dei figli, e perché il figlio possa abbandonarsi nelle braccia di suo padre, deve essere e sentirsi piccolo, bisognoso di tutto. Ho meditato frequentemente sulla vita di infanzia spirituale. Essa non è in contrasto con la fortezza, anzi, richiede una volontà forte, una maturità ben temprata, un carattere fermo e aperto. Pietà di bambini, dunque, ma non ignoranti, perché ognuno deve impegnarsi, nella misura delle sue possibilità, nello studio serio e scientifico della fede. La teologia non è altro che questo. Pietà di bambini, ripeto, e dottrina sicura di teologi. Il desiderio di acquistare la scienza teologica, la buona e sicura dottrina cristiana, è mosso in primo luogo dal bisogno di conoscere e amare Dio. nello stesso tempo, è anche conseguenza della preoccupazione di un'anima fedele di scoprire il significato profondo di questo mondo, opera del Creatore. Con ricorrente monotonia, alcuni cercano di far rivivere una presunta incompatibilità tra fede e scienza, tra intelligenza umana e rivelazione divina. Questa incompatibilità si manifesta, ma soltanto apparentemente, quando non si comprendono i termini reali del problema. Dato che il mondo è uscito dalle mani di Dio, ed egli ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e gli ha dato una scintilla della sua luce, il lavoro dell'intelligenza, ancorché richieda un duro sforzo, deve sviscerare il senso divino già insito naturalmente in tutte le cose. E con la luce della fede ne percepiamo anche il valore soprannaturale, reso comprensibile dalla nostra elevazione all'ordine della grazia. Non possiamo aver paura della scienza, perché qualsiasi ricerca, se è veramente scientifica, tende alla verità. E Cristo ha detto, «Ego sum veritas», «Io sono la verità». Il cristiano deve avere sete di sapere. Dall'approfondimento della scienza più astratta all'abilità manuale degli artigiani, tutto può e deve condurre a Dio. Non c'è lavoro umano che non sia santificabile, che non sia occasione di santificazione personale e mezzo per collaborare con Dio alla santificazione di coloro che ci circondano. La luce di coloro che seguono Gesù Cristo non deve essere collocata nel fondo della valle, ma in vetta alla montagna, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Il lavoro così fatto è orazione. Lo studio così fatto è orazione. La ricerca scientifica così fatta è orazione. Tutto converge verso una sola realtà. Tutto è orazione. Tutto può e deve portarci a Dio, alimentando un rapporto continuo con Lui, dalla mattina alla sera. Ogni onesto lavoro può essere orazione, e ogni lavoro che è orazione è apostolato. In tal modo l'anima si irrobustisce in un'unità di vita semplice e forte. La speranza dell'Avvento. Non voglio dire di più in questa prima domenica di Avvento, in cui cominciamo a contare i giorni che ci avvicinano alla nascita del Salvatore. Abbiamo visto che cos'è la vocazione cristiana. Abbiamo visto che il Signore ha fatto affidamento su di noi per portare anime alla santità, per avvicinarle a sé, unirle alla Chiesa ed estendere il regno di Dio in tutti i cuori. Il Signore ci vuole disposti a donarci, fedeli, sensibili, innamorati. Ci vuole santi, totalmente suoi. Da una parte ci sono la superbia, la sensualità, il tedio, l'egoismo. Dall'altra l'amore, la dedizione, la misericordia, l'umiltà, il sacrificio, la gioia. Devi scegliere. Sei stato chiamato a una vita di fede, di speranza, di carità. Non puoi restringere i tuoi orizzonti e restare in un mediocre isolamento. Una volta vidi un'aquila chiusa in una gabbia di ferro. Era sudicia e spennacchiata. Aveva tra gli artigli un pezzo di carne putrida. Pensai allora che cosa sarebbe di me se abbandonassi la vocazione ricevuta da Dio. Sentii pena per quell'animale solitario e prigioniero, che pure era nato per volare in alto e guardare faccia a faccia il sole. A noi è dato di sollevarci fino alle umili altezze dell'amore di Dio, del servizio a tutti gli uomini. Ma allora è necessario che nell'anima non ci siano nascondigli dove il sole di Cristo non possa entrare. Devi gettare lontano tutte le preoccupazioni che ti separano da Lui, perché Cristo resti nella tua intelligenza, Cristo sulle tue labbra, Cristo nel tuo cuore, Cristo nelle tue opere. Tutta la tua vita, il cuore e le opere, l'intelligenza e le parole, piena di Dio. Aprite gli occhi, abbiamo letto nel Vangelo, e levate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Il tempo di Avvento è tempo di speranza. Tutto il panorama della vocazione cristiana, quell'unità di vita che ha come nerbo la presenza di Dio, nostro Padre, può e deve divenire una realtà quotidiana. Chiedilo con me alla Madonna, immaginandoti quei mesi della sua vita in attesa del figlio che doveva nascere. E la Madonna, Maria Santissima, farà di te Alter Christus, Ipse Christus, un altro Cristo, lo stesso Cristo.